sempre sentito, non ci sono problemi, anche quando non riuscivo lui lo posso sentire a Sanza di Città, ma qui dove abito io l'ho sempre sentito, vero Gianni, ti ricordi? Devo dire la verità, diciamo, perché mi do da fare, faccio un buon radioascolto, per dire che era Barracuda, non si ricordava che stava, che c'era ascolto. Devi, no, perché io sono attento, se vuoi fare radio o ascolto mi vai. Stavo dicendo, ma l'amico Condor è proprio il Sassa di centro, no? Sì, però è una parte alta di Sassa, hai capito? Ma Rogerici, ma è bello, bisogna sapere le condizioni di trasmissione, appena è tutto, comunque già l'ascolto abbastanza bene, l'importante è che si dice fare due chiacchiere, dai. E niente, dai, ho ancora l'antenna a Condor, comunque è la seconda volta che lo sento in un paio di anni, che ci sono, per questo mi fa solo per piacere, dai. Pa. Allora, le mie condizioni sono 5 watt, antenna Ingo mezz'onda di tipo raccorciato un pochino, l'hanno fatta così di fabbrica, quindi non è un granché, diciamo, è come avere un'antenna da macchina. Oggi. Ah, la Ingo, ho capito perché, allora è questione di caratture e di attrezzatura che ha, se no Gerry, va bene dai, meglio di niente, fregatene, va benissimo. Ascolto e meglio di niente, dai, in questione perché la Ringo che non mi piace, non è proprio buona, comunque da un 30 euro già va bene. Pa. E quanti chilometri ci sono da Sassari a lì? Saranno linea d'aria, non lo so, io dico sempre il 30-35, buoni, abbondanti. Allora non è così male, perché pensa che a Porto Torres arrivo a Santiago 3, a Porto Torres non mi sentono quasi, cosa strana, quindi è migliore il rapporto tra te e me. Ma non va bene, ma Porto Torres, cavolo, cosa c'è? Monti ci sono, qua c'è Monte San Lorenzo, Monte Intesinara, Monte Cova, tutto il Monte di Usilo, a quando a girare il mio Genemi, sono quattro monti, di cui Usilo già sui quota 6, 7, 800 metri, Monte Cova, Monte San Lorenzo, sono quota 600, Sassari a 300, 250 metri, io sono a 500, quindi deve scavalcare almeno due monti da 300. C'è distanza, dai, c'è. Ok, da. Allora, rilancio Antonello Barracuda, avanti. Allora, io mi sono indicato il tuo nome perché mentre parlavo stavo facendo altro, ero attento a alcune cose per questo apparato. Dunque, scusami se mi sono dimenticato, Marco. Ti ricordi quella volta che avevi detto che tu avevi votato i grillini e li stavo criticando? Beh, in realtà ci sono cascato anch'io li ho votati, però mi sono reso conto di chi è Grillo e sa che non arriveranno mai lontano. Posso aprire la parentesi un attimo, veloce. Ciao Mattia. Posso? Aperta la parentesi. Ok, no, tu sei Barracuda. Vai tranquillo. Perché siccome non avevo capito la modulazione, niente, allora, sono entrato anche perché non ho capito che cosa ha detto Nisser lì, Pomponio, Nulli, Caserma, che cosa. Adesso che ti ascolto bene me lo puoi dire bene, li devi presente Barracuda. Perché non ho capito cosa stava dicendo, giustamente, ma visto che non ci si sentiva, perché tu mi hai detto non ti sentivo, neanche a te, fatto mi sembra molto strano. Dico, do a te, chiedo a te che cos'era questa informazione. Ah, se ho capito male, era della zona in cui ti trovavi per il segnale, io ho capito così, zona di Nulvi, quelle zone lì stava dicendo. Ci sei, Pompo? Sì, sono qui, dimmi. Ho sentito la Gianni. Io ho sentito, non ti preoccupare. Buonasera, dimmi. Aspetta, pensavo che in posto, la verità, sapevo che gli avuti, che altro, comunque sia, poi non lo so, vedi tu. Vabbè, quello va benissimo, ci sta anche bene, posso essere anche di Milano, ma il problema? Tu non esiste, non ti sentivo, quindi cosa... Se tu che lo... io però ti sentivo, adesso ti sento la verità, quindi ti sei spostato, sei in macchina di te, quindi problema, la verità non esiste. Se stato lo puoi sapere, sono più sapere di te, lo sai perché? Te lo dico come faccio il secondo cognome. Mi chiamo Tola Bruno e Tola sono i Sassariti, di cui ce ne sono 5 specie a Sorso, Dio Riccardo, Dio Gianfranco e ce n'è uno dove abita vicino a Giulio, dove infatti gli ho detto saluto mi tocca a Dio Giancarlo, che c'è la campagna per andare lì a Forte, alla Bugibugi, e infatti ho detto ma non di qua. Se volevi sapere adesso te lo metto. Oh, ma guarda, a me il cognome tu non vuole fregare proprio niente, la verità. Questo sia chiaro. È come io sono vent'anni a Balacchina, anche più di vent'anni a Balacchina, la verità. Questo è il cognome di suo. Anzi, sono andato e mi sono venuto a casa a trovarmi, gli altri cognomi, ci siamo ubriacati, la verità, quello che posso dire è quello lì. Quindi non... Cioè, io chiaramente a nessuno. Non ti ho la verità e quindi non mi interessa. Vabbè, se tu parli da dove stai parlando, oppure si dice sei da un'altra parte, non ti sa niente. Basta che tu, cioè che io ti senta, più che altro. Tu devi sapere quanto vedi, che la volta e basta. Cosa ti posso dire? Altro, la verità, boh, non lo so. Mancherebbe altro, siccome ti ho sentito avanti con tu credo, non riesco a, non ho capito se era, se ho sentito bene tutto qui, per quello sono entrato lì. Mamma mia, ma tutti cosa in testa tu, allucinante sei qua la verità, sei una cosa allucinante tu la verità, comunque tu, io so che tu sei nubi, se poi ne vado a una parte, a me non è stato proprio niente, Gianni, lo sai più di me, quindi a un certo punto mi piace, io ti sento perlomeno, più che altro, io ti sento, ti rispondo e basta, altro non ti posso dire. Non è che mi sto incazzando, non mi incazzo io, la verità. Anzi è meglio ti sento, no? Ti rispondo, ti avrei visto perché volte, quindi. Niente a posto, chi si sta arrabbiando? Stavo chiedendo giustamente, comunque ripeto, ribadisco che non ci sono tutti, è il men fumare. Dai, andiamo tutto il cambio a Giulio, dai, va bene, è aperta e chiusa parecchio. Ok, già, ascolta, ma per caso hai un cugino con quel cognome che si chiama Tore, guarda che ha lavorato per un trentennio, forse anche 35 anni per una ditta di Milano, e adesso però è rientrato ed è abita a Porto Torres, cugino per caso tuo. Allora, avevano un'impresa di idraulica, forse sono quelli che stai dicendo. No, no, questo lavorava alla, come si chiama, quella fabbrica dove scatolavano il tonno, Rio Mare, una cosa del genere, quel tonno Rio Mare, così si chiama il tonno Rio Mare, ha lavorato per un 30-35 anni lì, a Milano, vicino a Milano. Beh. No, no, negativo. Una famiglia abita a Sassari, a Monte Rosedo, cioè a Bersonella, eccetera. Per questo c'è anche a Sacro Cuore. Allora, questo non lo so. Vabbè, d'accordo, facciamo girare. Avanti, Barracù. E Ianomi, per rispondere alla domanda di prima, che anche io ho votato i grillini, non volevo votare e anche io sono rimasto deluso. Infatti la prossima volta non mi faccio più fregare. Ehi, Antonello Barracuda, mi sono reso conto che Grillo è un piccolo despota, mi dice lui e così e basta. non dà diritto di replica, non partecipa alle trasmissioni perché non è in grado di fare un confronto. Lui dice così ed è così e basta. E poi le persone del suo partito, basta che facciano una piccola critica, che non siano d'accordo con lui al 100%, li caccia via. Ecco chi è Grillo, un piccolo dittatore. Vai. Scoppiato Barracuda. Che sono entrati ora in politica, hanno lavato il cervello alle persone, compreso io, perché ripeto, no, sono anni che non votavo, proprio anni, forse una vita, e volevo continuare, ma ho seguito un po', dove, diciamo, sembrava che volesse cambiare il mondo, spaccare il mondo tutti insieme, perché metteva sempre in ballo la dignità delle persone, il rispetto, come sempre detto, e poi alla fine sono lì zitti da parte, un tanto si sputano uno con l'altro e finisce lì il discorso. No, anche a me mi deluso tantissimo, e dunque da me finiti i voti a chiunque, guarda. Attenzione Chiaramonti, guarda come arrivo adesso, così sono 60 watt. Non mi sono esposto, sapete, quando mi chiama Dio, e che è migliorato tantissimo, Santiago sono da 2,5, non mi perfetto. Così, un aiutino, dai, per arrivare un pochino meglio, un po' più su del QRM, dai. Ok, ribadisco, mi sono accorto di chi è Grillo, non tollera alcun pensiero indipendente all'interno del suo partito, e quindi lui ha sempre ragione e così e basta, non dà repliche, poi non viene secca, che quando lo invitano in TV per fare tipo tribuna politica lui non va, perché forse non sa controbattere o comunque dice così e il suo pensiero non lo cambia, non è elastico. Sono sommessivo, è un incapace, non sarebbe mai capace di amministrare, cosa. Lui è un investigatore, basta, e cosa è? Anzi, un pazzo, diciamo, dai. Io lo definisco pazzo perché così. Di politica lui cosa ha fatto? Lui vuole fare il comico anche adesso in politica, come sempre fatto. Non mi piaceva quando era comico, figurati se mi piace adesso che fa il comico in politica. Che ci vuole gente seria, non pagliacci come lui. Scusami un attimo, siete distanti, ma perché non votate a Cristian Pinna? Ma che chi è? Cazzo, sei distanti di me, non conosci il mitico Cristian Pinna. No, non lo conosco io. Non lo conosco. Ascolta, oggi io adesso non so se sei a casa, però mi fa venire un altro Santiago Nove. Mi confermi che sei sempre a casa oppure ti sei spostato? Perché con questo segnale non ti ho mai ricevuto. A casa, tranquillo, facciti con la poltrona, perché? No, appunto ti sto dicendo che mi stai arrivando Santiago Nove. Io Santiago Nove non te l'ho mai dato. Non ci sei mai arrivato qua, al massimo della V7, oggi sei 9 addirittura. Hai cambiato il mic, dai, no? Non c'è qualcosa di più discreto tutto qui, dai, ho cambiato anche antenna. Capito? Ascolta, Titino Ligiano lo conoscete? Certo, che lo conoscete Titino? Bello mi! Certo, l'hanno messo più in tazza, aiuto! Sì, io il voto Titino l'indiano, sono d'accordo, lo vogliamo premier. Antonè, Pomponio, lo conosci Titino l'indiano? Tino l'indiano. Tattico. Lo conosci Titino l'indiano? Io conosco un Titino maniaco, la verità. Sai cosa ti perdi? Chi è? Non so io. Oia, aspetta, l'amico di Chiaramonti, Dinamite mi pare, digli chi è Titino l'indiano e cosa è anzi. Io glielo devo dire, è un personaggio di Cagliari, lo conosce tutta la Sardegna, tutti i coatto. E Antonè, uno, non so come fine, uno sbandato, non so se si droghi, ne combina tutti i colori, l'hanno anche arrestato per, mi pare, un'estorsione a un anziano, roba del genere, tutto di più. Appunto, c'è un amore qua, su Facebook, 2 minuti. Faccio la croce la colpengo là, con le tette. Parla di Tricchiampina di Sassari invece lì, che è con Ganau, vostro sindaco. Vieni qua Sassari, maniaco, vieni, cazzo, è la ora, cazzo. No, se vuoi che cagliessi il pisello, va a fanculo, non ci vieni mai, cazzo. Boh. Sindaco Ganau, ma perché non le mette, cazzo, un po' di... non le tappa con le cuffie, cazzo, e facendo rotatori. Notato, lo trovino, sindaco. Riprendete che sto saldando. Salda, che già va bene. vabbè. Anche lui, comunque, inquisito, lui è tutta la giunta comunale. Perché avevano dato un permesso per un eccessivo come con i metri cubi di costruzione e il negozio che c'è a Santa Maria dove c'è Carrefour eccetera, no? E tutto il consiglio comunale, compreso il sindaco, sono indagati, infatti ne avevano fatto già un primo processo, adesso non so come è finito, ma ce ne saranno degli altri sicuramente. Non la sai l'ultima? E qual è l'ultima? Il vostro sindaco preferito si è candidato alla presidenza della Sardegna, come cavolo è quella, l'indipendente, oh, mi viene anche di sfugge il nome, indipendente, come cavolo era questo, vabbè, il presidente comunque si fa, lui solo e un altro, e Cappellacci forse, non sono sicuro. Non me lo ricordo, dai, senza IVA, dammi tu le cose, baracuto. Ehi, Gavino Sale stai dicendo? Gavino Sale, Suru e Ganau. Sì, ma Sardegna quella mano, perché stavano facendo la referendum, che volevano farla entrare come isola indipendente, ma c'era un nominativo giusto, porca miseria. Ricordamelo bene. Guarda, ci sto pensando, ma anche a me mi sta sfuggendo. Giulio, tu ci puoi illuminare, a me non per neanche io ci sto pensando, ma non mi viene in mente questa persona. Non so se sono i quattro muri, credo che siano, boh, sono degli indipendenti, forse volevano formare, boh. No, quello che volevano parlare, mi sfugge, neutrale, aspetta, cosa fa? Sassai, boh, non lo ricordo. Comunque si è candidato. No, non lo so. No, ma il sindaco di Sassari è un sindaco di sinistra, ma penso che sia socialista, non so cos'è, boh. Ehi, avete anche una bella signorina, Alessandra Giudici, è veramente loco, eh? E vabbè, quello è il presidente della regione. Anzi, della prefettura, non della regione, la prefettura, lui è presidentessa della prefettura, vabbè, ma c'è già diversi anni quella, eh? Ci sarà, io penso, 7 anni già, boh. Già lo credo, il secondo mandato, ha vinto. Appunto, ha fatto il primo mandato, poi è stata rieletta. 7-8 anni, non lo so di preciso, comunque, sempre loro sono quelli che mangiano. E vabbè, beh, io vi saluto, dai. Ciao Gianni, dinamite, salutoni, fatevi sentire. Ciao Marco, ciao Antonello Pomponio e Antonello Barracuda. Saluto a tutti, dai, vi ascolto. Però passo quello di dai. Se prende Barracuda, ascolto comunque, dai. Ehi, hey, ciao Giulio, buonanotte. Sogni d'oro e ci sentiamo domani. E la batteria, sogni 144, dai, le prossime. Giulio, alle prossime, buonanotte. Giulio, alle prossime, ci sentiamo là. Vado con tutto. Vabbè, ciao, buonanotte a tutti, dai, mi ascolto comunque, fin quando non mi viene sonno. Pensare che Barracuda ne stava pure parlando, ma dovevi fare una cosa, ragazzi. Guarda, sto pensando, oltre a quei tre, in quel partito che stai dicendo tu, volevo fare la Sardegna dipendente. No, non mi viene sinceramente per niente in mente. Stavamo parlando che la cugina doveva portare in giro, ti ricordi, ma non mi ricordo come cazzo era. KK. E per Condor è questo? Via con l'eco. K. Condor con il lecca lecca, com'è? Prestabile? Vedi sì. Ecco, lo metto ogni tanto, tanto per farlo lavorare, per usarlo un po'. Ok, dai, riprendete. Sto finendo di saldare, ma mi pare sia tutto pronto. Secondo me comunque si è interrotto il cavo, non alla punta del PL, ma all'uscita del PL. Sì, lo hai. Bombogno, cosa hai detto? Non te l'ho copiato. Sì, Maria, cosa ho detto? Sì, grazie, lo so. Che c'è doppio lungo, è andato la buonanotte. Tanto cosa, perché sono a baracchino su Facebook, capito? Quindi quella non vuole che io metta a baracchino. Sì, maniaco. Pomponio, quando ti vedo ti dico una cosa. Se vuoi. Gianni, sei all'ascolto. Buonanotte, se stai chiudendo, Io non ascolto, ma come non mi fida di credibilità. Ciao, ciao, buonanotte, buon ascolto allora. Via, ciao Gianni, buonanotte. Oh, Dinamite, sai che ti avevo scambiato per Fabrizio Mascherato? Sì. Un CB di Sassari, arrivava basso, un po' come arrivavi qui, e anche la voce è un po' simile, non dico uguale, ma può ingannare, ecco. No, non lo so, non l'ho mai sentito, cos'è questo CB? E praticamente era un vecchio CB della mia età, penso. È entrato l'altra volta dopo 10 anni o 16 di assenza, capito? Ma quindi ci si dà molto in frequenza. Allora ti spiego, io sono entrato nell'estate dell'84 e poi sono andato via nel 94-95, sì, praticamente 15 anni che non modulavo, sono entrato 3 anni fa. Roger, ho capito. No, perché quando ho sentito la prima volta Condor, ho detto ma Condor io l'ho sentito anche nel mio giorno, con Condor, la persona non di casa, va bene, buon acquisto là. Comunque io, almeno in passato, ho fatto un'attività CB abbastanza marginale, capito? Più che altro ascoltavo. Benissimo, riprendi Bomponio che vado a controllare quel tappeto. Pomponio? Minimo è caduto nel cesso. No, io da parte mia metto in modulato, sto cercando un po' di studiare questo apparato. Secondo me, per come funziona, ha come particolarità, come che abbia un preamplificatore incorporato a questo apparato. Perché ti togli anche il minimo scorreggio laddove ti pare e ti piace. E dunque quando bisogna modulare devo attenuare per dare una modulazione piacevole per tutti e tre o quelli che c'è in ruota. Amplifica tantissimo, c'è un amplificatore di segnale, guarda, veramente impressionante. c'è anche per i segnali forti, così? No, no, assolutamente no. Guarda, questo... Cioè, allora, lasciando perdere questo NB, ANL, perché c'ha due filtri che puoi attivare o disattivare, c'è questo AGC, non so cosa voglia dire direttamente, comunque la funzione è quella, lo disinserisci e diciamo che è la modulazione normale, inserendolo te l'amplifica quasi a fondo scala il segnale. Dunque con quello devi giocare con le RF gain per dare la modulazione più piacevole, ma pur amplificando molto non la distorce la modulazione. Confronto a per dire al Galaxy che non ce l'ha, al Midian o tanti altri apparati, diciamo CB, di quelli da diciamo tra virgolette CB normale, ecco, non c'è di apparato nessuno, proprio niente di professionale. C'è questa particolarità, amplifica tantissimo il segnale. Allora, AGC dovrebbe voler dire Automatic Gain Control, controllo e guadagno automatico. Giuro che aumenta veramente, ma veramente, tanto. Tanto, perché meno male sto facendo paragoni tutto il giorno per studiarlo un po', e secondo me c'è qualcosa all'interno già come modello di un preamplificatore di segnale, secondo me, perché non è possibile, amplifica veramente tanto e dunque giustamente ha la possibilità di attenuare sino al tuo piacimento, sia lì che dalle FR Game. Comunque io i superstar in genere, tutti quelli con la scheda e PT 3006 non li sostituirei per nessun apparato, sai. È ben riuscito, imitato da sono in moltissime marche al mondo, una cosa incredibile, ha avuto uno sviluppo incredibile proprio la scheda PT 3006, quindi Superstar, Connex, eccetera eccetera. Vabbè, qui stiamo parlando di vecchissimi modelli, se non sbaglio sono 6 degli anni 80-90. Non è americano, mi hanno confermato, ma è inglese. E qui vabbè, la componentistica, alcuni qui c'è scritto Made in Japan, dunque all'epoca lì erano già abbastanza laboriosi per questi pezzi giapponesi, se ormai è tutto cinese, dunque abbastanza vecchiotto, là però perfettamente in ottime condizioni. Allora scusa un attimo, ha ragione quello che ti ha detto Marco, vuol dire aggancio automatico della frequenza. Che significa? Se c'è un piccolo spostamento o aggancia ai centri, capito? Ah, se sono io o quello che ricevo fuori frequenza, leggermente fuori frequenza devo azionare quell'interruttore, non è un amplificatore di segnale. Perché quando io ripeto, lo disattivo, il segnale si abbassa notevolmente, però sento benissimo tutti. Attivandolo amplifica, guarda, ti giuro, con le RFG a manetta a fondo scala, ma tutti, guarda che anche Gianni di Chiaramonti, se lo azione metto tutto al massimo, io Gianni Chiaramonti lo faccio arrivare a 9 più 30, non è poco, invece confrontandolo col Galaxy mi arriva a Santiago 7 Radio 5, uno lo fa arrivare a 9 più 30 Gianni di Chiaramonti con questo apparato, facendo diciamo queste piccole manovre. Sì, sì, ma è così. Va bene, continua ad ascoltare, continua avanti. Gianni Ramonti. Sono al telefono. Ti vuol fare la prova in banda laterale? Banda laterale, aspetta, però sempre sul 5, USB. Cappa, giusto un attimino. Ascolta, tu hai il frequenzimetro? Negativo, negativo. Io vado a tabella, ma in realtà dovrebbe essere centrato questo. Oh, poi ricorda che comunque il clarifier va sempre usato per centrare la stazione in SSB, Sì, sì, esatto, ok, no, perché verso le 8:30 con Gianni stavamo provando e mi ha detto che era leggermente spostato. Comunque proviamo, dai, USB, sempre su questo canale. Come ho spostato in banda laterale? Confermo anch'io, centratissimo, anch'io. Va bene, giustamente ho votato regolare, perché mi era a zero, l'ho messo a metà. Non devo toccare né per Giulio e neanche per Condor. Tutti e due perfettamente centrati, vi sento benissimo, tutti e due. E poi io clarifico dove è anche lo scatto. Quando sento lo scatto non lo più lì, e poi seguo lì dal tunnel eventualmente. Questo qua diciamo c'ha fine costa a 180 gradi, questo modello qua, e non c'è nessuno scatto, Giulio. Comunque a metà va bene, sia uno perché per l'altro, perfettissimi tutti e due vi sento. Come mi senti, Giulio, va bene? Certo, un meglio di AM addirittura, più forte, tutto va benissimo, perfetto, non ci sono problemi. Cosa volevo dirti? Sì, perché in realtà la frequenza in banda laterale è più pulita, almeno su questo canale è molto più pulita. E io sento a Gianni di Chiaramonte. Avanti Gianni. Negativo, io non lo sento, ha detto che era al telefono. A me è sembrato lui. Anche a me lo stesso, vi sento tutti e due benissimo, ma veramente, veramente bene. Guardi, una limpidezza incredibile. Poi c'è anche più potenza, cioè, perché in banda laterale rende di più lo parecchio, no? Sì, sì, molto, molto bene. Perché anche tutta la giornata, correggimi se sbaglio, era abbastanza disturbata come frequenza, e non so se si è collegato. A stamattina e stasera, scusa, tutto il giorno collegato per provarlo, abbastanza sporca in AM. Ok, comunque perfetto, 27.075, a me mi sta segnando così il frequenzimetro, dunque è centratissimo. Oh, pochino. Che in AM, in banda laterale. C'è la banda laterale? Oh, gente, non c'era la banda laterale, passate... Passate, rimanete in banda laterale, dai, io stacco, divertitevi voi, dai. Siamo qua, faccio una veloce prova. Ci andrete, infatti, dai, vi garrete, io stavo qui lo per fine trasmissione, anche perché il tempo qua è brutto, ci sono fulmini che grandina. Perché? Sta grandinando lì, Gianni? Sì, sta grandinando, quindi sta sul capo della penna e oddio, non sta suonando, non mi piace nulla, dai. Allora, per forza, se la verità è... Sì. È leggermente nuvoloso, e vedo anche che il programma Pinna è illuminato a giorno. D'accordo, no, ti ringrazio. No, io me ne sono accorto, adesso mi sono affacciato, come hai detto tu, perché l'ippodromo Pinna, quando si illumina il giorno, riflette molto nel cielo e si vedono le nuvole, sì, abbastanza anche qua, abbastanza nuvoloso. Va bene, ci sentiamo già, mi sa che ne approfitto anch'io, chiudo, e domani fortunatamente... C'è una giornata di lavoro, va bene, vi ringrazio, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani, chiudo anch'io. Ok, ciao, Fabio, buonanotte, grazie anche a te per il consiglio, ciao, grazie a tutti, buonanotte a tutti. Ciao a tutti, sia a Chiaramonte che a Ossi, e ci sentiamo le prossime. Io adesso sistemo tutto, vediamo... Se tutto è a posto, e se non ti dà un po' tutto, mi. Non ci butta appunto. 10 bene, non ti preoccupare, stai. No, l'ho detto così, è giusto per vedere se il cavetto è interrotto in punta o se è interrotto dopo lo spinotto. Bene. Buonanotte a tutti, anche a Pomponi, mi. Non fare sogni brutti, Aspetta, non ti preoccupare, sogna. Sì, è un bando, prego. capo avete parlato in due. Antonio dicevano fare sogni sporchi e sogni porcaccioni. D'accordo, vetto, fatto sono sempre facendo ciucciù. Oh, non mando. Ok. Oh, questo microfono non mi convince comunque. Bla bla bla. Ora, ora. Vabbè. Non è basso di radio, no? Spero di no. No, è già giusto di radio, lo sai. È tranquillo adesso. È perfetto. E chicco. Benissimo. Comunque io di questo apparato lamento un pochino che in banda laterale è sempre stato abbastanza basso di watt. Spiego, questo è in origine 4 watt MFM, watt CCB PEP, PEP. In realtà fischiando ne da 10 e parlando normalmente non ne dà nemmeno 5, capito, in banda laterale. O perché ti avevo chiesto se si poteva alzare solo in banda laterale il wattaggio, invece mi hai detto di no. Ah, sono così, fai a te, di bene. Oh, ho spento il lineretto perché diventa troppo caldo veramente. Aia, budendi. Ci vorrebbe una piccola ventolazza che toglierò da un alimentatore vecchio. Va bene, dai, buonanotte a tutti di nuovo. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, Pompo. Buonanotte a tutti. Non ti avevo ancora salutato. Bacioni, Pompo. Ciao, fatto vecchio. Se ci vediamo, sì, non ti preoccupare. Così facciamo l'amore. Voglio vedere se salie. Voglio proprio vedere. Chissà che se la volta buona. Io non si ama giù mai, là. Va bene. Grazie, Pompo, a domani. Assago, ti preoccupare, ciao, domani. D'accordo, ci sentiamo, buonanotte.